essere comunisti non significa la stessa cosa da epoca a epoca, da generazione a generazione. Concerto Marchesi è stato un comunista della prima generazione, anzi in fondo lui si forma nel Partito Socialista prima della scissione all'atere del Partito Socialista, quindi è quasi un pre-comunista. Quelli che hanno fatto il Concerto Marchesi sono la generazione successiva, sono i giovani, i 25enni che stavano al congresso del 45. Beh, Vaia c'era già un po' più di 25 anni per la verità, e anche Sacchi credo, ma non tanti tanti di più, insomma 40 forse credo, correggimi. 40 siamo là. Bene, ogni generazione di comunisti ha avuto un suo compito. Cerchiamo di distinguere. Sul sito uno mi ha scritto: ma perché sei di Rifondazione Comunista? Io gli ho risposto: beh, perché sono comunista. Poi ho evitato di precisare altri dubbi che mi vengono per la testa, ma a proposito, scusa, non ha capito il passaggio sulla mancanza di un partito comunista, ma non c'è Rifondazione? Vabbè. In realtà la domanda che il compagno mi faceva è: ma perché sei comunista? Badate che noi siamo in un momento nel quale succede che Bertinotti da una vita già dice che il comunismo ormai è innominabile. La Rossanda settimana scorsa ha detto che no, non possiamo più, per un sacco di tempo non possiamo più chiamarci comunisti. Il compagno Cossutta ha smesso proprio di parlare, di dire qualsiasi cosa, tutto sommato meglio, più dignitoso. Vendola, che 20 anni fa scriveva alla tenera età di 29 anni le sue memorie, c'è gente che a 29 anni scrive le memorie, intitolandole Una passione comunista, gli è passata la passione, non c'è più la passione comunista. E allora il problema è: che significa essere comunisti oggi? Il discorso l'ha messo su due piani. C'è un piano culturale, ideologico, direi antropologico, cioè la concezione che è dell'uomo, e l'idea del comunismo come possibile superamento, che il capitalismo non è l'ultima spiaggia dell'umanità, non è eterno, come dice Onfray. Onfray è un intellettuale francese che ha scritto un saggio sull'ateismo, una specie di guida all'ateismo. Poi dice: il capitalismo è eterno, non rendendosi conto che la categoria di eternità è una categoria di pensiero religiosa. Io credo che il capitalismo non sia eterno. E questo è l'aspetto ideologico. Poi però c'è un aspetto politico che riguarda l'immediato. E quello cambia di volta in volta. E la generazione di Concerto Marchesi eccetera pensava all'immediatezza di una rivoluzione comunista mondiale, pensava all'idea di un socialismo che sarebbe stato costruito in tutto il mondo molto rapidamente. Già la generazione successiva, quella della Resistenza, si rende conto che il discorso è un po' più immediato, un po' più complicato. C'è stata la lezione di Gramsci che ha insegnato il problema delle società occidentali, dove ci sono le casematte del capitalismo da espugnare, che il socialismo non è un atto, non è un'insurrezione di un momento, ma è un processo piuttosto lungo e complicato da realizzare. Noi oggi che compiti abbiamo? È vero, siamo in piena rivoluzione del capitale, però attenzione, è un momento in cui la rivoluzione del capitale si sta rivoltando contro il capitale. La crisi non è una crisi momentanea, non è un incidente di percorso. Qui stanno saltando in aria tutta una serie di equilibri e con ogni probabilità si inaspirerà in un futuro molto vicino. Quindi non è un caso che in molti paesi i partiti che fanno riferimento esplicito o implicito al comunismo stiano avendo successi anche elettorali interessanti. Questo non succede in Italia, ma per ragioni diverse. E allora, guardate, il comunismo poi in fondo sono due idee. Uno, la critica del capitalismo, che non è solo il capitalismo un giorno lo supereremo, è la critica di quello che il capitalismo è nella realtà contemporanea in cui ti trovi a operare. Secondo, l'idea che la critica al capitalismo deve saldarsi alla lotta di classe, punto. queste sono due idee che sono rimaste solo al movimento comunista. Il movimento socialista inizialmente era anticapitalista e legato alla lotta di classe, ma lentamente le socialdemocrazie hanno abbandonato questo orizzonte fino a diventare totalmente interne, neanche a un'ottica socialista, ma totalmente liberale o liberista, come quella attuale. L'anarchia, che inizialmente era l'altra grande componente del nascente movimento operaio, si è ridotta a un fatto testimoniale a metà fra la rivendicazione della libertà individuale e la critica estetica della realtà, che non è tanto gradevole da vedersi. Le uniche componenti, l'unica componente che ha mantenuto una vocazione anticapitalistica in rapporto con la lotta di classe è il comunismo, e tutti quelli che hanno abbandonato questa referenza. Ecco perché io lo so che il nome comunista è pesante da portare. È pesante perché è stato sputtanato da tanti fallimenti che noi ancora dobbiamo capire e spiegare. Dentro ci stanno le cose più diverse attualmente. Ci sta Cuba, che però Raul ha detto che non tanto più gli piace questa idea, e ci sta la Cina. Detto fra di noi, fra queste quattro mura, io talvolta ho il timore che il comunismo cinese non valga molto di più delle loro borse Vuitton, che sono contraffatte. Non è esattamente quello il tipo di comunismo che vorrei realizzare io, soprattutto in riferimento. Beh, no, mica tanto, mica tanto. Fanno qui le e poi le rimarcano, sì, però visto che le fanno, ma allora lo so, il nome comunista è pesante a portare, però guardate, ogni volta che viene abbandonata questa referenza iniziano pasticci ambigui. Pensate a Sell, che semplicemente non è liberista, non è antiliberista, diciamo è aliberista, non si pone il problema, sta su un altro pianeta, non è un problema che riguarda il compagno, è una narrazione diversa, cosa che non c'è. Io invece credo che noi abbiamo un compito preciso, stare all'interno di questo processo, di questa crisi. Se mi permettete, io credo che noi dobbiamo contraddistinguerci non come la componente, io non credo che noi la faremo fra due mesi, due anni, forse con ogni probabilità, io non credo di riuscire a vederla, probabilmente molto più in là nel tempo. Questo non significa che non ci abbiamo niente da fare. Io non credo che abbatteremo il capitalismo a breve, ma certamente possiamo impedire la sua versione peggiore. Ecco, io non penso che noi dobbiamo fare il discorso di miglioristi, intanto perché io penso che il capitalismo sia superabile, ma soprattutto perché l'accento cade su un'altra cosa. Diciamo che io credo che a noi spetti un compito antipeggiorista. Noi ci troviamo di fronte a un capitalismo che nella sua versione dell'ipercapitalismo finanziario esprime al massimo le tendenze distruttive del capitalismo, le tendenze all'ipersfruttamento della forza lavoro, le tendenze al massimo di diseguaglianza. Negli Stati Uniti la differenza di reddito fra le classi ricche, i veri ricchi, e il ceto medio, non sto parlando dei poveri, sto parlando del ceto medio, è di 1 a 7.000. Ci siamo capiti? Il rapporto è diventato questo. Noi siamo in una società nella quale negli Stati Uniti i redditi più bassi da lavoro pagano il 35% di tasse, mentre invece i redditi oltre la soglia del milione di dollari pagano il 15% di tasse. Cioè siamo alla tassazione regressiva sul reddito, cioè più guadagni e meno paghi, perché è giusto che sia così. Ecco, io credo che su questo terreno ci sia da costruire tutto un pensiero politico di critica al capitalismo esistente e di lotta ai suoi aspetti più pericolosi e degenerativi. E credo che su questo, peraltro, noi abbiamo anche interlocutori, mantenendo la nostra identità di comunisti. Guardate che troviamo interlocutori anche di marca molto diversa. nel libro che sto scrivendo io cito molto, per esempio, due autori, Morant e Gallino. Morant è socialista, è uno dei consiglieri di Hollande, anzi se ne parla come il possibile ministro dell'economia di un governo Hollande in caso di vittoria socialista. E Gallino è uno che ha iniziato con Olivetti, era l'amalfiano e ha sempre votato Partito Repubblicano Italiano, va bene? E oggi è uno dei critici più accaniti dell'ipercapitalismo finanziario. Quindi guardate che ad avere iniziativa politica, quello che da un po' di tempo latita, interlocutori ci sono interlocutori intellettuali, ci sono movimenti, ci sono organizzazioni, c'è tutto un lavoro da fare nella CGIL, per esempio, e nei sindacati, c'è tutto un lavoro da fare di riorientamento della base. Ma voi pensate che tutti quelli che votano Partito Democratico siano realmente soddisfatti e contenti e si sentano rappresentati da Bersani e da Veltroni? E certo che se l'alternativa che gli offri, non fatemi fare nomi, è quella, quelli si turano il naso e votano PD. Ma non è che non ci sia un lavoro da fare a tutti i livelli. Molto c'è da fare per ridare una coscienza alle nuove generazioni, per associare le giovani generazioni a questa elaborazione di pensiero politico. Perché in realtà le cambiali da pagare le pagheranno loro. Noi ormai forse la pensione ce la pagano, può darsi che ce la faccia, non è proprio sicurissimo, insomma. Ma il problema sono i ventenni, chi è al di sotto dei 25 e 26 oggi, che ha davanti un futuro, se va bene, di precarietà, o altrimenti deve inventarsi da solo, deve essere autoimprenditore di se stesso. Bene, su questo noi abbiamo il dovere di collegarci a questa generazione per elaborare questo pensiero politico. Dobbiamo tornare ad avere una critica del capitalismo reale, non di quello che sta sui libri, di quello di cui ha parlato magistralmente Marx. Io tuttora posso citare orgogliosamente un passaggio di Marx sul capitale fittizio, per carità resto marxista, però ovviamente Marx parlava del capitalismo che conosceva, ha dato per la verità dei poderosi strumenti di analisi ancora oggi utilizzabili, ma oggi quegli strumenti li dobbiamo applicare a una realtà diversa, molto più sviluppata, più complessa, con molti aspetti più oscuri e molta maggiore feccia di quanto non ce ne fosse al tempo di Marx. Però dobbiamo lavorare su questo capitalismo, sul suo modo di funzionare. Prima cosa, recuperare il metodo del lavoro d'inchiesta. Abbiamo bisogno di analisi su quello che è realmente, su come funziona il sistema fiscale. E lì, per esempio, scopriremo una cosa, per fare un esempio, che la cosiddetta lotta all'evasione fiscale che sta facendo il governo Monti è una clamorosa truffa, perché sta spostando l'attenzione su una serie di ceti, per carità, meritevoli di questo e d'altro, perché sono dei maiali che denunciano 20.000 euro all'anno andando a giocare al casino a Sanremo, personaggi spregevoli. Però attenzione, questa lotta moralmente giusta è economicamente scarsamente rilevante ed è politicamente pericolosa, perché depista l'attenzione dalla grande rendita finanziaria su cui questo governo non sta facendo niente. Ecco, allora è a partire da queste analisi che noi possiamo ricostruire un pensiero politico e di conseguenza un'azione politica comunista non settaria. Noi abbiamo bisogno di parlare anche con i Travaglio e anche con i Grillo, che ogni tanto regge male l'alcol, per cui fa delle uscite soprattutto sugli immigrati, insomma, che creano qualche disagio. Non importa, come ci insegna Marx nel manifesto, noi di volta in volta su singoli obiettivi troviamo convergenze con altri. Ed è a partire da questo che possiamo attivare una rinascita della nostra area, dei compagni che io vedo molto scoraggiati, delusi dappertutto, che però vorrebbero trovare qualcosa. In questo senso è importante avere un aggancio con la storia, una memoria, anche per capire dove si è sbagliato, dove si poteva fare diversamente, eccetera, non ripetere meccanicamente una serie di cose, ma spiegare il nostro presente con quello che c'è dietro, ma allo stesso tempo inventarci qualcosa sul futuro. Quindi da questo punto di vista è fondamentale riprendere questo lavoro senza ripiegare la bandiera. Lo so che è un nome pesante da portare, ma guardate che ogni volta che è stato abbandonato e con la bandiera è stata ripiegata, regolarmente si è finiti inghiottiti dall'avversario. Ragione per cui, tutto sommato, penso che lo scriverò prossimamente sul sito, perché sono ancora oggi comunista.